eccomi sulla strada del mondo. Sono qui, ma non so dove andare. Adesso mi fermo sulla strada del mondo e passerà anche questa tristezza. Ma che mi prende questa sera? Ma io non so neanche il perché. Ho tutto il mondo fermo qui davanti a me, lo schermo pieno di canali web, ma senza te eccomi sulla strada del mondo. Sono qui, ma non so cosa fare, dove andare, con chi parlare, quali sono i miei traguardi da perseguire. Il tempo passa in fretta e in fretta se ne va, ma dorme tutta la città. Domani un nuovo giorno sorgerà e il mio pensiero svanirà, ma adesso sono qua. Sono qua ed eccomi sulla strada del mondo. Sono qui, ma non so dove andare. Eccomi fermo sulla strada del mondo e passerà anche questa tristezza. La mia strada nel mondo, la mia strada nel mondo, la mia strada nel mondo che va. Ieri sono andato in collina e con la moto disegnavo le strade, e ieri ho navigato nel vento e con la mente tracciavo possibilità. Perché ogni giorno è una battaglia tra la mente e il desiderio, tra le cose immaginate nel cervello e la quotidianità che mi ammazzerà. E sì, mi ammazzerà, perché non trovo la mia strada nel mondo per mancanza della mia volontà. E poi non riesco più a galleggiare nel mondo e nei colori della felicità. Dov'è la mia strada nel mondo? Dov'è la mia strada nel mondo? Dov'è la mia strada nel mondo? nel mondo che va.